Commissario Montalbano. L'odore della notte di Andrea Camilleri. Sceneggiatura in 10 puntate di Francesco Bruni e Salvatore De Mola. Regia di Alberto Sironi. Decima e ultima puntata. Maria Stella lo guidò fino a Fora Vigata, facendogli pigliare una strada dove a dritta e a mancina si vedevano rare ville solitarie, alcune delle quali in stato d'abbandono. Il commissario non era mai stato da quelle parti, perché lo meravigliava il fatto di venirsi a trovare in un posto bloccato a prima della speculazione edilizia, della cementificazione selvaggia. Quella specie di incubo, che aveva già patito ascoltando il racconto della signora Clementina, ora diventava sempre più opprimente. Attraversarono una vasta anticamera di Sadorna, poco illuminata. Odorava di polvere e di abbandono, un odore chiuso e muffito. Maria Stella gli rapì la porta del salotto. Era addobbato di mobilia pesante e rivestita di cuoio. Prego, si accomodi, commissario. Grazie. Vide sopra un mobile un ritratto a pastello di un uomo anziano coi baffi. È mio padre. Ah. Oh, yeah. Posso fare qualcosa per lei, signorina? No, grazie. Anzi, se mi scusa solo un attimo, vado a prendere un poco di acqua fredda, mi farà bene. Prego. A Montalbano, anche se raramente, era successo di vedere per la prima volta un posto e provare la sensazione di esserci già stato o di rivivere situazioni in precedenza vissute. Ma ora si trattava di qualcosa di assolutamente diverso. Le parole che gli tornavano a mente non gli erano state dette, non gli erano state contate, pronunziate da una voce. No, ora era persuaso di averle lette. Non restiamo qui nel vestibolo. Le mostro le altre stanze. Prego, commissario, venga. Aveva capito che stava vivendo dentro un racconto. L'unica era continuare a leggerlo e a viverlo, quel racconto, arrivare alla terribile conclusione che già conosceva. Questo è il primo salotto. Mi segua. Prego, commissario. Questo è un secondo salotto. Mi segua. E questo è il fumoir. Sì, lo so, è una casa molto grande per una persona sola. Io mi sono sistemata in un'ala della casa. E ci sono delle stanze di là dove non vado da anni. E lo so, è una casa molto, molto grande, sì. Ma io non riesco a immaginare la mia vita in un altro luogo. Tutto qui. Prego. Venga, venga, commissario, venga. E questa è la camera per gli ospiti. Sul letto, marrone di sangue rappreso, accuratamente avvolto nel nylon e ancora più accuratamente sigillato da nastro adesivo, stava allungato lui, Emanuele Gargano. E non c'è nient'altro da vedere, disse Maria Stella Cosentino, astutando la luce della camera degli ospiti e richiudendo la porta. Maria Stella non aveva visto il morto. Per lei non esisteva. Non c'era su quel letto insanguinato, l'aveva completamente rimosso. Il dolore è diventato insopportabile. Mi chiamo un medico. Sì, grazie. Il dottore La Spina. Ci dovrebbe essere il numero vicino al telefono. Grazie. Pronto, il dottor La Spina? Sì. Buonasera, mi scusi se la disturbo a quest'ora. Il commissario Montalbano sono. Sì, sono il dottor La Spina, mi dica. Buonasera. La chiamo da casa della signorina Maria Stella Cosentino. La signorina Cosentino? Che le è capitato? No, niente di grave. È stata investita e ha dei forti dolori a un fianco. Arrivo subito. Sì, dottore, io le devo chiedere una cosa sotto la mia personale responsabilità. Avrei bisogno, e la prego di non farmi domande, che la signorina dorma profondamente per qualche ora. Nel suo stesso interesse. Non si preoccupi, provvedo io. La ringrazio. Sta arrivando. Grazie, commissario. Commissario non ha niente del rotto, soltanto una brutta contusione all'anca che le ho medicato e poi le ho fatto una terapia opportuna. Penso che dormirà per qualche ora. Come lei ha chiesto, l'ho anche persuasa a riposarsi, esattamente come mi ha detto lei. La ringrazio. Dottore, quanto le devo? Ma che mi deve? Ma si figuri, io conosco Maria Stella da quando era una bambina, si figuri. Piuttosto penso che ha bisogno di un'infermiera o di qualcuno che le faccia compagnia. No, non si preoccupi, stasera ci resto io. Ci pensa lei? Bene, wow. Arrivederci, commissario. Buonanotte. Tornò nella camera di Maria Stella, pigliò una seggia e s'assettò al lato a lei. Una volta qualcuno gli aveva detto che il sonno provocato apposta è privo di sogni. Allora perché quel povero corpo ogni tanto era attraversato, scosso da sussulti violenti come per una forte scarica elettrica? E allora perché grosse lacrime scivolavano da sotto le palpebre della femmina? Che ne sapevano gli scienziati di cosa poteva capitare nel misterioso, indecifrabile, irraccontabile paese del sonno? Gargano era solo un truffatore. Non aveva retto all'omicidio di Giacomo. Dopo aver gettato in mare la macchina agguantata alla valigetta, era corso alla porta di Maria Stella, sicuro che la donna non avrebbe parlato, non l'avrebbe tradito. E Maria Stella l'aveva accolto, l'aveva confortato, ospitato. E poi? Poi, quando gli aveva fatto pigliare sonno, l'aveva ucciso. Perché? Per gelosia? Una folle reazione alla rivelazione del rapporto del suo Emanuele con Giacomo? No. No, Maria Stella non l'avrebbe mai fatto. E allora? Allora l'aveva ammazzato per amore. L'aveva ammazzato per risparmiare all'unico essere veramente amato nella sua vita il disprezzo, il disonore e la galera. Appena sentì una macchina arrivare, Montalbano si susì, aprì il portone, andò incontro a Guarnotta. Sta arrivando. Non c'è bisogno che saliate tutti, la signorina sta dormendo. Ti ho già spiegato per telefono quello che troverai là dentro. Fai attenzione perché troverai anche una valigetta con il computer e i dischetti di Giacomo Pellegrino che ti permetteranno di accedere ai conti bancari di Emanuele Gargano. Devi assolutamente cercare di recuperare tutti i soldi rubati e restituirli a quei poverazzi che sono stati truffati. Ti saluto. Voi aspettate qui. Tu vieni con me. Mentre tornava verso Marinella, dovette fermarsi due volte. Non ce la faceva a guidare. Era sfinito e non solo nel corpo. Ormai si era veramente fatta notte. Respirò a fondo. E allora sentì che la notte aveva cambiato odore. Era un odore leggero, fresco. Era odore d'erba giovane, di citronella, di ventuccia. Ripartì esausto ma confortato. Trasì nella sua casa e di subito s'apparalizzò. Livia stava in mezzo alla camera. Vide la faccia di Livia che cambiava d'espressione. Ciao. Corse ad abbracciarlo. Ho dimenticato di dirtelo. Montalbano ebbe un solo pensiero. Nitido, forte. Come ha? Meno male che è qua. No, ma che dici?